FM。 Seconda ora, 10 e 5 minuti primi su Rock FM, c'era anche Peter Gabriel con Salisbury Hill. Tra i vari compleanni che vi ho già segnalato nei primi 60 minuti, mi sposto ai compleanni dei nostri ascoltatori. Vado direttamente sul sito rockfamily.it e scopro che oggi compie gli anni Jeska, tra parentesi 29. Sarà il nickname, quello da lei o da lui scelto, per iscriversi. Tanti auguri se in questo momento è collegato e all'ascolto di Rock FM. Andiamo invece alla prossima segnalazione, sempre nella giornata del 15 di maggio, però al 1982, la formazione, il supergruppo degli Eja, nati da componenti degli Yes che erano fuoriusciti dalla band, arrivano con il loro album d'esordio al numero uno nelle charts americane e ci rimangono per ben 9 settimane. Gli Eja, che sono ancora in attività da pochi mesi, hanno pubblicato con la formazione originale un nuovo album molto bello. Oggi li riascoltiamo con Only Time Will Tell. You're leaving now, it's in your eyes, there's no disguising it, it really comes as no surprise to find that you planned it. Dal supergruppo degli Asia ad una novità, visto che prima abbiamo parlato e ascoltato la formazione dei Rolling Stones con, d'accordo, una ballad da uno degli album più funk che loro hanno proposto. Capita naturalmente nella carriera di un artista a volte di esulare un attimino al di fuori dei classici schemi rock e provare fare dei tentativi con mix magari tra rhythm and blues, il blues stesso, il funk, cosa che lui in questione, Glenn Hughes, nella carriera solista ha già fatto. Glenn Hughes è stato bassista nonché cantante già con i Trapeze, con i Deep Purple, in un album anche con i Black Sabbath, e poi la sua carriera solista. Uscirà in questi giorni un album nuovo che si intitola First Underground Nuclear Kitchen e verrà a suonare lunedì a Bologna e martedì a Milano. Io incrocio le dita perché martedì 27, nell'ultima settimana di vita di Rock FM, potrebbe, usiamo sempre il condizionale, venire nei nostri studi. Lo ha già fatto nel corso della sua carriera, è venuto a presentare i suoi album solisti, però è un po' più difficile magari quando suonano dal vivo averli ospiti, però ci stiamo muovendo, ci stiamo interessando, quindi spero che Glenn Hughes possa essere dei nostri nell'ultima settimana. Glenn Hughes, che viene definito The Voice of Rock. Questo album però ci riporta un po' a sonorità più soul. Cioè, alla batteria c'è il suo grande amico Chad Smith, che è il batterista dei Red Hot Chili Peppers. Io ve lo propongo con il brano che è il singolo, che si intitola Love Communion, proprio perché vi dà l'idea che la sua voce, nonostante tutto, ben si adatta anche a queste sonorità. Glenn Hughes. To go, we gotta try to justify. qua si suona di brutto, questo brano, questo disco. Grandi musicisti, quando i musicisti sono veramente bravi, la musica è così ed è bella, piace. First Underground Nuclear Kitchen, da questo album Love Communion, Glenn Hughes, ripeto, speriamo di poterlo avere qua dei nostri martedì quando sarà a Milano. E Fungo mi scrive: ho sentito quest'album di Hughes, è incredibile. Eh sì. Trisdassi pronto a partire con George Thorogood and the Destroyers. Ritroveremo gli Yardbirds con For Your Love e chiuderemo con i Kiss e la loro dolce interpretazione. L'unico loro, uno dei pochi brani lenti dei Kiss, cioè Beth. Hello Josephine, how do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. T-shirt con il logo di Country Skyline e di Rock FM in regalo ai primi 100 che si prenoteranno alla serata di venerdì 23 maggio, Country Skyline Farewell Night. Una serata con i Turnover sul palco del Milwaukee 50s Diner e un DJ set di Maurizio Faulisi. Invia subito una mail di prenotazione a info@milwaukeediner.it o telefono allo 0362 583 073. Il locale si trova a Varedo, in provincia di Milano, sulla superstrada Milano Meda. Informazioni su www.milwaukeediner.it oppure www.myspace.com/Maurizio Faulisi. Sure. I bring you diamond rings and things right to your door. Simmons from Kiss, and you're listening to Rock FM. Barbara Caserta e tutte le Kiss Sexy se sono all'ascolto. I Kiss non mi stanno ascoltando, però fa nulla. Erano le note di Beth, alle 10.25, altro Tris Dassi, altro compleanno. 1951, 15 di maggio, nasce Dennis Frederiksen, già cantante dei T.O.T.O., dei Toto. Il compleanno del giorno. Don't change my soul. the signs of